Foodlab, il cibo del futuro e il futuro del cibo, di Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ma dovrebbe essere proibito. Che cosa? Sparare al parmigiano? Parmigiano è illegale. No, non è illegale, anzi è una pistola speciale, di cui adesso parleremo subito. Stai lì. Andiamo da Andrea Galli, che ci racconta proprio di questo dispositivo che si chiama Spara Parmigiano. Intanto benvenuto Andrea Galli. Saluti a tutti. Allora, lei è direttore del Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Caseare del CREA. Il CREA è il consiglio, è uno degli enti più grossi di ricerca pubbliche in ambito di agricoltura. Ora, l'abbiamo anticipato così, una pistola spara parmigiano. Abbiamo un po' ironizzato, però in realtà è un dispositivo molto sofisticato che avete messo a punto per studiare la composizione del parmigiano reggiano. Certo, il parmigiano reggiano è assolutamente uno dei prodotti di eccellenza che caratterizza l'Italia praticamente nel mondo. È da sempre previsto nell'ambito del disciplinare di produzione che tutte le forme di parmigiano reggiano vengono valutate sia da un esperto tramite una valutazione visiva, la classica valutazione col martello o con l'ago, ma è altrettanto previsto che almeno una forma per lotto venga classicamente aperta e analizzata con metodi chimici. Quello che noi abbiamo messo a punto è un semplice, leggero e rapido in termini di uso strumento che semplicemente sfiorando la crosta del parmigiano reggiano ci consente di avere delle informazioni straordinariamente dettagliate della sua composizione. Ed ha un'impugnatura, quindi è per questo che vi è venuto in mente di parlare di spara parmigiano. Ma per esempio, lei appoggia questo strumento sulla forma ed è velocissima l'analisi? L'analisi è assolutamente velocissima, stiamo parlando veramente di pochi secondi. Questa analisi di pochi secondi viene ripetuta in 5 differenti punti per ogni forma, in modo tale da ripetere l'operazione per almeno una settantina di forme per lotto ed effettivamente in tempi rapidissimi, inimmaginabili utilizzando metodi chimici classici, riusciamo a avere una fotografia straordinariamente dettagliata e numerica della qualità di un intero lotto. Cosa che prima si faceva invece spezzandolo, quindi con un metodo piuttosto invasivo. Ecco. Si buttava via la forma. E quali sono i parametri che vengono fuori? Cioè, che cosa ci dice la spara parmigiano? La fra virgolette spara parmigiano ci dà indicazioni circa l'acqua presente, ovvero sia l'umidità, il grasso, le proteine e soprattutto molto importante il rapporto grasso e sostanza secca, proteine e sostanza secca, cioè in quanto grasso e quante proteine c'è nel nostro formaggio una volta tolto l'acqua. Per darci tutte queste informazioni, questo dispositivo di che tecnologia è dotato? Questo dispositivo è dotato di una tecnologia che è nata ormai decenni fa, è una tecnologia che viene definita NIR, per cui spettroscopia nel vicino infrarosso, ed è una tecnologia che consente in funzione di una radiazione elettromagnetica che viene sparata e poi restituita verso una sostanza e in qualche modo viene ricevuta indietro, modificata dalla sostanza che è stata colpita, ci dà la possibilità di individuare delle specifiche molecole presenti all'interno di quella sostanza. E se la forma non va bene, cosa vuol dire? Se la forma non va bene vuol dire, ma questo è un problema classico, vuol dire che ci sono stati problemi essenzialmente durante la maturazione del formaggio o se è ripetuto nell'intero lotto è possibile che fosse accaduto qualcosa a livello di linea di produzione di caseificio, ma problematiche decisamente straordinariamente rare. Però insomma serve per garantire, per certificare il consorzio in qualche modo? Serve per supportare il consorzio nella sua attività di attività attenta vigilanza affinché le forme siano prodotte così come previsto dal disciplinare, e soprattutto, aggiungerei io, serve per garantire tutti noi consumatori che effettivamente abbiamo un consorzio che vigila con metodi sofisticati sulla qualità del prodotto finito. Ma quindi questo può significare che d'oggi in poi chi vuole parlare di un certo tipo di qualità deve poter dimostrare che ha fatto analisi con questo strumento? Sto pensando ai supermercati americani che sono pieni di Parmesan. Il problema del Parmesan è un altro problema, è il problema di spacciare per prodotto italiano di altissima qualità. Qui stiamo parlando di una caratterizzazione oggettiva di qualità. Certo, un domani solo esclusivamente con strumenti di questo tipo, rapidi, precisi, attendibili, di semplice gestione anche in contesti molto complessi come può essere un magazzino, solo in questo modo si potrà garantire standard di produzione elevati. Aumenta. Che comunque è una ricetta di qualità che i disciplinari già prevedono. Ok, va bene, grazie davvero Galli, buona ricerca ancora sul parmigiano e tutto il resto. Grazie a voi e saluti a tutti. E noi torniamo presto con Food Lab.